Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Conchita Wurst, la drag queen con il volto barbuto, ha vinto stanotte per l'Austria l'edizione 2014 di Eurovision a Copenaghen. La cantante, 25 anni, all'anagrafe Tom Neuwirth, ha battuto tutti secondo i pronostici dopo aver monopolizzato l'attenzione della vigilia per la sua eccentricità oltre che per il talento vocale. Seconda l'Olanda e terza la Svezia. This night. Questa notte è dedicata, ha detto l'artista, a tutti coloro che credono in un futuro di pace e libertà. Sapete chi siete, siete un'unità e noi siamo inarrestabili. And we are unstoppable. Conchita Wurst ha trionfato nella finale a 26 di Eurovision 2014, 59esima edizione della competizione canora paneuropea, sulle note di Rise Like a Phoenix. E ci siamo finalmente, siamo arrivati al punto massimo della possibile liberazione. Avete sentito Conchita Wurst, l'avreste vista oggi, perché vista, non so più come si possa dire, perché finché si parlava di una persona transessuale, cioè un uomo che aveva mutato i suoi caratteri fisici esteriori da maschili in femminili, per essere politicamente corretti occorreva dire una trans. Io dicevo un trans, mi hanno tutti accusato di pensiero retrivo, ma adesso nel caso di Conchita, che un signore con una barba bella folta, che però ha fattezze fisiche parafemminili, vestito da donna, si presenta come donna, come Conchita, e ha vinto questo importante festival, l'Eurovision Song Contest a Copenaghen, e tutta l'Europa è impazzita per Conchita, per lei, bisogna dire Conchita. Beh, è molto interessante, perché? Perché c'è una ulteriore mutazione rispetto ai nostri orizzonti legati appunto alla diluizione del genere in una vasta gamma di possibili punti di riferimento. Io oggi ho davanti a me due foto che in una lettura molto spengleriana potrei dire significative di quello che sia il tramonto dell'Occidente. Una è la foto delle donne iraniane in prima pagina del Corriere della Sera che mettono su Facebook le loro foto in cui si svelano finalmente felici, ci hanno tartassato per anni con questa sorta di relativismo per cui le donne islamiche sono felici di essere messe sotto il velo, felici del chador, felici di essere ingabbiate, chiuse, perché fa parte dell'orgoglio per la loro tradizione. Ma da questo mi sono felici, belle, contente, liberate, con questi veli portati dal vento, se li tolgono mostrano capelli bellissimi, senza che nessuno necessariamente debba considerare le donne perdute. Sono le donne che acquisiscono la loro libertà togliendosi il velo di testa, togliendosi il suggello della vergogna, della chiusura che gli uomini impongono loro perché rimangano in un angolo, non si facciano vedere. E invece il trionfo dell'Occidente è Conchita. Conchita è la donna barbuta, l'uomo vestito da donna, non si sa bene. Non si sa bene se sia qualcosa che dà forza e persistenza nel tempo alla battuta che Claudio Villa, come mi suggerì questa mattina Fabrizio Intonti, fece a Renato Zero nelle prime volte si confrontarono canoricamente, e gli disse: ma tu che fai? A carnevale te vesti da uomo? E gli disse questa cosa. E infatti il fatto che Conchita oggi stia dilaniando le coscienze delle persone per capire cosa sia, come vada definito, ma soprattutto quale immaginario erotico debba ella suscitare o egli suscitare. Perché guardate, adesso ce n'è per tutti. Se prima, diciamo, il turbamento delle signore era il fatto che i loro impavidi mariti, fidanzati, compagni, sotto le grisaglie, sotto le scarpettine Hogan, sotto il pantaloncino attillato, sotto l'austera divisa del maschio metropolitano potessero celare nascondimenti furtivi di andare a vedere cosa significasse andare con una donna dotata pure di attributi maschili. Oggi con Conchita ce n'è per tutti. Conchita chi può piacere? Può piacere agli uomini che finalmente abbandonano questa sorta di velato pregiudizio di andare con i trans, che sì, in effetti sono più donne le donne, però sotto in effetti hanno qualcosa che le donne normalmente non hanno alla nascita, però fa bene, ci sta bene anche quello, probabilmente tutti salgono sulla giostra e chi ce n'è per tutti. Ma Conchita per chi è? Conchita potrebbe aumentare delle inquietudini che nemmeno possiamo immaginare. Conchita potrebbe piacere alle signore. Le signore potrebbero improvvisamente avere l'idea che in effetti gli piacerebbe uscire con un'amica con la barba, oppure gli piacerebbe uscire con un uomo vestito da donna. Non si sa bene. Beh, a voi Conchita questa mattina cosa suscita? 800 24 0024. Waking in the rubble, Walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? Ecco, questo è Concita, questa è Concita. Canta, sarebbe una cantante banalissimo, come banalissima sarebbe la suora ballerina cantrina che sta spopolando nel mondo se non fosse suora. Concita, se dalla cintola in giù non fosse vestito da donna, ma anche dalla cintola in su probabilmente, o se fosse un trans, un travestito, una travestita, chiamate come volete, con la barba, nessuno si fosse accorto, e se sarebbe accorto. E quindi ritorniamo al vecchio circo in cui la donna barbuta viene presentata attraverso la fiera delle meraviglie, c'è di tutto: donna cannone, uomo serpente, contorsionista, palla umana, uomo elefante e donna barbuta. Siamo arrivati alla donna barbuta, quindi un bel passo avanti hanno fatto le donne iraniane, si tolgono finalmente il velo e fanno vedere che possono anche essere accarezzate dal vento, ma noi facciamo un passo indietro, siamo tornati al circo della donna barbuta, quello che viene invocato come finalmente la catena più avanzata dell'evoluzione umana, dell'abbattimento del pregiudizio, di cui poi veramente non so nemmeno di cosa si parli, è ritrovare la donna barbuta, perché prima avevamo la drag king, che era la donna se era uomo. Le drag king sono delle donne che si fanno la barba finta, si vestono da uomo, che era il fenomeno più avanzato rispetto alla drag queen, che se erano degli uomini si vestivano da donna. Ma adesso come definiamo la donna barbuta? Beh, per avere un lume su questa sorta di vintage dell'immaginario erotico, ci siamo consultati con un importante personaggio, ma prima vorremmo farvi sentire una clip. Su, non assalirmi, buona, su. Dai, sali sull'albero. Ma non capisci. Tu sei la donna scimmia, io ti ho catturato in Africa. Sei allo stato selvaggio, hai capito? Allo stato selvaggio. Tu devi cercare di assalirmi quando io con la frusta faccio così. Così, capito? Poi cerchi di saltarmi addosso e infine sali sull'albero. Sì, ma io sto facendo il minestrone. Ma cosa me ne frega del minestrone? Oh! È uno spettacolo questo qui. Dobbiamo montare un numero. Il pubblico paga e vuol vedere delle cose. Ricordate, questo è Tognazzi con la moglie barbuta, la donna scimmia. Aveva una donna piena di peli con la scimmia e ne fa un'attrazione, una cosa fantastica, ma era una commedia irrisoria rispetto al decadimento nei modelli estetici o la ricerca dell'esotico nei modelli estetici. Ma chi può parlarcene meglio che Giuseppe Sansonna? Sansonna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Giuseppe Sansonna è ancora impolverato da Set Cinematografico, l'abbiamo tolto, distolto un attimo da Torino, le sta girando il suo Colossal ultimo giro, in cui dovevo avere anch'io una parte, ma ahimè contingenze familiari e professionali mi hanno impedito di ambire probabilmente al prossimo Oscar. Ma ce l'avrai audio, appunto, come ti compete, con la tua magnifica voce descriverai. Ma torniamo al film di cui parlavi, che è appunto La donna scimmia di Ferreri, dove il losco Tognazzi circuisce un orfano, la storia di Annie Girardot, barbuta, e la performance sua canora splendida quando canta nei pieni quartieri spagnoli, nella losca duchesca, canta la canzone di Toni Dall'Ara, Mogol e Antonio Prieto, La novia. Bianca e splendente va la novia, mentre nascosto tra la folla, dietro una lacrima indecisa, vedo morire le mie illusioni. Canta stridula, è un po' una drag king ante litteram e in fondo ci riporta all'argomento di oggi. Quindi no? Scusami, tutti i trendsetter che avranno messo a punto questa sorta di oggetto di culto che è Concita Wurst, che naturalmente è stata costruita a tavolino come la monaca ballerina, non è che da un giorno uno salsa dice ci inventiamo la trans con la barba e cose del genere. Altro ne sono ispirati con un film di Marco Ferreri del 64. Sì, era già tutto lì. Ferreri aveva questo terzo occhio obliquo sulla modernità, che affondava in un cinismo paradossale e pieno d'amore, in cui One of Us, il mostro è uno di noi, come diceva 30 anni prima rispetto a lui Todd Browning, quando raccontava il suo circo di Freaks, in cui tutto era accettabile, ciascuno si porta dentro e fuori la sua mostruosità, una mostruosità che può essere estetica, seducente, obliqua, e i segni sono anche nella contemporaneità così piena di luci rutilanti. Google Bubble è una di noi, e una di noi, quando fanno bere la coppa del mostro, l'unica esatto. Bella si ribella e sarà trasformata in orribile donna gallina, deformata e mutilata. Fermo lì, Sansonna. Meris, buongiorno. buongiorno. Io telefonavo perché ero convinta di essere una persona aperta mentalmente, però a vedere con Zitta ho provato ribrezzo. Perché ribrezzo? Adesso ribrezzo addirittura. È un bel perché, ragazzo. Disgusto. Perché non lo so, io sono una donna di 57 anni. Ma solo perché ha la barba il disgusto? La barba proprio, sì. Se non avesse la barba sarebbe una bella ragazza, anche se un uomo. No, la barba, questo perché io comunque vedevo un uomo che imitava una donna. Ah, ecco, ci vedeva il lato grottesco. Sì, il lato grottesco della scena. Ma perché è paradossale? Perché hanno reinventato una nuova categoria, inusitata e singolare, in cui può appoggiare parte del suo immaginario erotico onirico. Non le dà un minimo di fremito, Concita? Assolutamente no, il mio immaginario erotico me lo dà l'uomo in sé, e vi dico, io parlo pur essendo, cioè, ho avuto amici gay, non ho nessun... Beh, se amici fa... gay è vecchia come il cucco, ho molti amici gay. Sai, io ho 57 anni, sarò anche vecchia come il cucco, però le dico... Ma è più giovane di me, tanto per cominciare, quindi non offenda. Ho risposto alla sua battuta. Quindi lei diciamo, a lei non dà nessun tipo... Non c'è una deriva possibile che lei potrebbe essere suggerita dalla presenza di Concita? Vabbè, è un punto di vista. Paolo, invece. Sì, buongiorno. Sì. Sono Paolo da Spezia. Sì, io non trovo una grossa novità in questa performance di questa persona, specialmente dal punto di vista del look, perché... Io ho lavorato in un settore molto specializzato, girando il mondo in fiere e quant'altro. In Germania è capitato... Cos'è? Rasogli per donna? Cosa vendeva? Sì, esatto, qualcosa di simile. No, lo dica, perché sennò rimane un'ambiguità incolmabile. No, è una fiera specialistica in elettronica, quindi frequentata solo da personale del settore. E all'interno, diciamo, della attrezzi fiera, elettronici. Sì, all'interno della fiera giravano tranquillamente questi uomini barbuti in tailleur, vestiti benissimo, elegantissimi, però non è una novità, perché io sto parlando di questo che è accaduto nel 2000. Quindi già esisteva, quindi, diciamo, la categoria già esisteva, nel senso la definizione di uomini con la barba che si vestono in tailleur e vanno in giro in tailleur. Sì, ma è vero, adesso che mi ricordo l'immagine l'avevo già presente, solo che adesso è stato celebrato, è diventato un fenomeno pop, prima era un fenomeno soltanto di nicchia, forse questa soltanto la novità. Fermiamoci un istante, mi sembra che la donna barbuta o l'uomo travestito, ancora evidentemente, dopo centinaia di migliaia di anni che esistono questi fenomeni, continuano ad avere comunque un notevole appeal, e quindi ne parleremo. Melog, cronache meridiane. Desidera? Ah, io sono venuto a prendere anche lei. Non è mai possibile, anche lei. Quella non è in vendita, quella l'ha commessa, non è una scimmia. Ma cosa dice? Matto, quella è la mia bambina. Non è una babbuina, è una commessa. Quella è la mia bambina, mia figlia. Mariangela, vatti a cambiare che sono le 7. Mi scusi, non per fare un appunto, ma non so se si è reso conto che lei prima... Giuseppe Sanzonna, quindi Concita è una rivalutazione, è un recupero di Mariangela Fantozza a tutti gli effetti. Beh, se vuoi sì, anche la sua ferocia, villaggio trasformò un uomo, Plinio Fernando, nel correlativo oggettivo della bruttezza metafisica nell'immaginario italiano, però la grande madre di tutte che non abbiamo ancora citato è Iulia Pastrana, una donna ipertricotica che visse nell'Ottocento, che fu sfruttata come fenomeno da baraccone da Theodor Lent, che la fece imbalsamare come faceva Tognazzi nel film di Ferretti per esporla in tutto il mondo, insieme al figlio neonato morto durante il parto. Quindi c'è questo utilizzo del mostro che attrae e repelle allo stesso tempo, con la stessa intensità, la stessa duplice intensità. Questo mi sembra che anche Concita ispiri questo, tutto sommato. Beh, vedi, Concita comunque è riuscita a far parlare di sé, perché in effetti l'impatto iconografico è forte, rimani colpito, poi non sappiamo più cosa inventarci, fino a che non avremo la fortuna dell'extraterrestre finalmente si appaleserà nella sua forma aliena, non possiamo che combinare quello che abbiamo sotto mano, e sotto mano abbiamo sempre quelli, qualche pisello, qualche passera, qualche peli, metti sopra, giri, sì, ma sempre quello è alla fine. Cambi, diciamo, gli elementi, ma il risultato è comunque un ammasso di agglomerato umano. Giuseppe, buongiorno. dottor Nicoletti. Sì. Ma adesso, al di là di quello che può causare a me di disagio, non disagio, eccetera. Vabbè, disagio è una parolona, ma che ci importa? Cioè, vabbè, no, ancora però, diciamo, qualche monaca baffuta si vede. Roma è una città molto frequentata. Cioè, no, io abito in provincia, ne vedo. Io vedo quando esco alla metropolitana Ottaviano il mercoledì certi baffoni, altro che concito. Ha voglia. Volevo dire cosa. Intanto, io credo che quello ci mette a disagio ciò che è quasi uguale a noi. Cioè, se io vedo una faccia di un essere umano con la pupilla di un gatto, è molto più mostruosa di uno con 10 corna, certo. Perché è quasi uguale. Quindi sì, la, ma non la è mostruosa, lo sa cosa lo trovo io? Quelle feste che si fanno nei paesi, che c'è sempre quello che si veste da donna, che è sempre il più schifoso, il più barbuto, il più ciccione, il più orrende, lo si veste da donna e poi sotto si mette anche un paletto per mantenere viva l'idea che la virilità c'è. Il Man che avete in qualche modo citato. Roger Amadou in Donna Flor e i suoi mariti, il primo marito di Donna Flor, muore proprio così, questo travestito da donna con una mazza tremenda nascosta sotto il vestito. È un romanzo brasiliano. La parte che mi sembra che a me crea un po' di fastidio non è quella. Lui sarà anche bravo, brava. Non ma bravo, canta, insomma, come canta tanta gente. Anche simpatica e tutto, cioè gli occhi luminosi. Bravo paraculo, certo, chiaro. Ma però quello che mi pare inquietante non è lui o lei, è il fatto che a me questa sembra un po', come si dice qui dalle mie parti, una marchetta al pensiero unico europeo, cioè al fatto di eliminare la cultura diciamo tradizionale di sessuazione tradizionale per fare entrare una cultura gender. Ma scusi, mi sembra molto. In cui si eliminano la definizione papà, padre, madre, nel momento in cui si cerca di. Ah, la vede in questo senso? Ma... Cioè, secondo me c'è una componente politica. Dice? Ma non lo so, il dubbio mi viene. Quindi con questo che vedete fate l'Europa è il luogo delle grandi confusioni di genere. Vabbè, senta, ma a noi che ci cambia, onestamente, non credo questo determini delle mutazioni irreversibili del genere umano. Se ne parlerà ancora una settimana, farà qualche giro in televisione, poi scomparirà naturalmente questa cosa qua. Marco ha parlato, Giuseppe? No, Marco ha parlato, no, non ha parlato. No, Marco, non ha parlato. Marco, eccolo. Io devo riprendere semplicemente quello che ha detto la signora all'inizio e diversi altri suoi ascoltatori, ma effettivamente io abito in una città dove queste cose praticamente non esistono, ma lavoro a Viareggio dove abbiamo sfilate di orgoglio gay, un giorno sì, un giorno no, e di queste cose se ne vedono tutti i giorni ormai, cioè il grande interesse di questo argomento sinceramente è abbastanza... Lei dice un po' inflazionato, diciamo. Assolutamente. Sì, però sa qual è il passaggio? Il passaggio... che prima venivano considerati, ha visto nel film di Ferreri, nelle storie raccontate a Sansonna, dei fenomeni da circo. Oggi quello che una volta era fenomeno da circo è inglobato come una possibilità tranquilla, capito? Normale, non c'è nessun problema. Il marketing personale è sempre esistito, ma non è che perché una persona va in televisione debba necessariamente essere... poi pubblicizzate anche da altri, insomma lui la sua parte. Sì, ma secondo me io dico il mio punto di vista, Concita non è che sia una persona diversa in maniera abnorme da qualsiasi altro artista che ostenta comunque, fa parte della sua maniera di porsi, come faceva anche Renato Zero, quando Renato Zero negli anni 70 si vestiva in quella maniera ambigua, figuriamoci, era uno scandalo terribile, quando arrivò a Mandalì che si vociferava che fosse un uomo, figuriamoci. Renato Zero è venuto a Spezia diverse volte in un grosso teatro che adesso è stato demolito con 3.000 spettatori vestito di paillette negli anni... fine anni 60. Lui importò nell'Italia bigotta e democristiana un modello. Ma non ha suscitato nessuno scandalo, era semplicemente uno spettacolo. Sì, era uno spettacolo. Era uno spettacolo, l'uomo barbuto. Lei ci vede qua dentro invece un significato profondo, sottile, di in vista delle elezioni europee, portare Concita vorrebbe dire si cambia la definizione. Le assurdità si sentono ogni momento, Concita non avrà nessuna influenza su nessuna. Ma se improvvisamente diciamo le persone cominciassero a circolare anche in questa maniera, lei per strada vede comunque tantissime donne che si capisce pieno, che una volta magari erano maschi. Ma è pieno. Con la barba no, ma la barba è semplicemente un effetto pubblicitario dettato dal marketing che ha scoperto che tutto il resto ormai era già stato fatto. Questa forse è una piccola novità, a parte il cinema che avete citato, ma è una piccola novità, non è nulla di nuovo. Lo sa perché ho fatto questa missione, perché ho visto stamattina che era la notizia del giorno, che voglio sentire cosa ne pensa la gente comune, quanto è colpita veramente, ma lei mi conferma la mia impressione. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, io ho visto per televisione, appunto, ieri sera, mi pare, questa Concita. Cosa. E chi è che ormai non la conosce, figuriamoci. Mi ha disgustato proprio, dico la verità. Ma perché? Perché gli ha fastidio quel senso di difficoltà, di peloso sulla perché faccia, forse, nel caso si avvicinasse. Perché forse sono abituato alle cose normali. E cosa sono le cose normali? Le donne, le cose normali le donne che si depilano i baffi? Una donna. Che si depila i baffi quando ce l'ha? Dunque, volevo dire una cosa. Non io mi segui. Senza voler offendere o portare discorsi. Cioè, a me sembrano queste persone, se era una questione di marketing o di pubblicità, è un conto. Se invece è nella vita una cosa di questo tipo. Ma cos'è una cosa che tipo? Così come ce lo presentano, che è una donna con la barba, eccetera, io credo che potremmo, senza offendere i diversamente abili, si attento perché ce n'ha vicino uno. Stia attento che ce n'ha vicino uno che conosce bene questo problema, quindi moderi le parole perché. Certo, non voglio essere offensivo, voglio dire. Penso che ha delle caratteristiche che non sono secondo. Ah beh, lei ha perfettamente ragione, natura, ma è chiaro, ma lei ha ragione, le do perfettamente, una donna barbuta è chiaro che ha una ipertricosi, che è un problema, lei identificando Concita in una donna barbuta dice dovrebbe farsi la barba che ha una epilazione abbondante, lei probabilmente a casa sua, la sua signora, si farà i baffi settimanalmente e avrà una bella pelle liscia, se si facesse crescere i baffi lei la considererebbe una disabile, le do perfettamente ragione.